24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino. Io vi ricordo che c'è anche una mail, 24mattino@radio24.it, e parliamo ora di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E allora oggi parliamo di un tema che un paio di mesi fa era diventato un tema da primo piano, da prima pagina, perché ci furono anche delle polemiche quando si diceva stanno per togliere o bloccare quella famosa detrazione al 55% per chi fa i lavori di ristrutturazione nelle case che risparmia, che soddisfano i criteri di risparmio energetico. Poi fu scongiurata quella cosa, esatto. Però parliamo di questo tema, il di questa detrazione. È stato prorogato, sì, ne riparliamo perché ci sono delle novità. Ricordiamo in che cosa consiste questo bonus del 55%. È banalmente una detrazione fiscale entro un limite massimo che può variare da 30.000 a 100.000 euro a 100.000 euro a seconda ovviamente dell'intervento che si fa nell'abitazione. È una ripartizione che secondo i nuovi criteri da quest'anno verrà effettuata in 5 anni. Per le spese che invece i contribuenti che ha fatto dei lavori hanno sostenuto entro il 31 dicembre scorso è possibile scegliere un periodo variabile fra i 3 e i 10 anni. E allora, qual è la notizia che oggi ci ha riportato di nuovo sull'argomento? I contribuenti, le famiglie italiane che stanno completando i lavori o che li completeranno entro la fine di quest'anno, troveranno a partire dal 30 aprile sul sito dell'Enea la nuova sezione per l'invio della documentazione e quindi cominciare a effettuare la domanda per chiedere questo incentivo fiscale. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Stamattina ce lo spiega il dottor Giampaolo Valentini, responsabile del gruppo di lavoro efficienza energetica dell'Enea. Dottor Valentini, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. È pronto il sito? Diciamo che è in via di completamento e contiamo di metterlo online il prossimo 30 aprile. Allora, quali contribuenti sono interessati ad inoltrare la domanda attraverso questo nuovo canale? Qual è appunto concretamente la novità di cui le famiglie che ci stanno ascoltando, appunto, che stanno facendo lavori nella propria abitazione, devono aver conoscenza appunto? Dunque, per quanto riguarda le novità, per l'Enea in particolare non ce ne sono, anche se c'è qualche novità per quanto riguarda comunicazione per l'Agenzia di Entrate, di cui dirò fra un attimo. Sì, esatto, perché magari lo preciso io, dottor Valentini, sì. Nel senso che l'incentivo è rimasto, il decreto anticrisi del governo varato in dicembre ha portato delle novità per quello che riguarda l'invio della domanda per ottenere, esatto, l'incentivo. Questa, ecco, il nodo della questione. Per quanto riguarda il nostro sito, che sarà online il 30 aprile, sono tenuti ad inviare la propria documentazione tutti coloro che hanno realizzato i lavori completati o questi lavori entro nel 2009, diciamo, entro 90 giorni dal termine dei lavori stessi. Quindi tutti coloro che hanno completato i lavori quest'anno e entro 90 giorni dal termine dei lavori sono tenuti a inviare la documentazione relativamente ai lavori realizzati sul nostro sito, ripeto, che sarà online il 30 aprile. Mm-hmm. Ecco, il tema è a questo punto che si trova, come dire, a cavallo di questi 90 giorni. Le faccio un esempio banalmente: chi ha terminato i lavori a gennaio di quest'anno e praticamente i 90 giorni di tempo scadono esattamente alla fine di questo mese, pertanto non è ancora pronto il sito per inviare appunto con la procedura online la domanda per ottenere l'incentivo. Che cosa deve fare? Allora, per coloro che hanno terminato i lavori a gennaio, quindi come ha detto lei, non sarebbero in grado di usufruire del nostro sito, è ammesso l'invio per raccomandata semplice all'indirizzo che sta anche sul nostro sito di informazione, di cui posso dare... ci siamo, così magari sollecitiamo chi ci ascolta al fatto che esiste un indirizzo a cui mandare la documentazione, esatto. Quindi magari ci si informa direttamente. Quindi tutte le informazioni, compreso l'indirizzo a cui inviare la raccomandata e anche la assistenza per gli utenti, sta sul nostro sito, che è efficienza energetica, tutto attaccato, punto ACS, Ancona Como Savona, www.enea.it, efficienzaenergetica.acs.enea.it, senza il www iniziale. Certo. Allora, tra l'altro lo sottolineava anche il collega Cristiano Dell'Oste sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi, è abbastanza probabile che i contribuenti che si trovano in questa situazione siano pochi, perché l'incertezza sulla detrazione che si era scatenata alla fine dell'anno scorso, quando il governo aveva ipotizzato questa stretta sul bonus a partire da quest'anno, aveva indotto quasi tutti coloro che avevano lavori in corso a concluderli entro la fine dell'anno. Però insomma qualcuno c'è, pertanto chi avesse completato i lavori a gennaio deve inviare appunto in maniera materialmente appunto con a busta chiusa praticamente, dottor Valentini, la documentazione all'Enea. È molto difficile la procedura invece per fare la domanda online? Ma non dovrebbe essere molto difficile, anche perché la maggior parte di coloro che utilizzano la procedura online sono per lo più tecnici, professionisti, o comunque tecnici che già sono in un certo senso abituati a questa procedura. È vero che per alcuni lavori più semplici, tipo sostituzione di finestre comprensive in infissi o installazione di pannelli solari, anche l'utente finale può inviare per conto proprio la documentazione. Che però generalmente questa procedura autonoma viene non propriamente suggerita, viene un po' scoraggiata per non generare errori, altrimenti non diciamo si è facoltà dell'utente. Certo, io mi rendo conto che l'utente che non ha dimestichezza con i mezzi informatici possa trovare qualche difficoltà, però in caso noi facciamo del nostro meglio per assistere, per cercare di venire in soccorso di chi si trova in difficoltà. Sì, tra l'altro ricordiamo anche che avevate attivato, con la collaborazione di due associazioni dei consumatori, un numero verde per poter chiedere tutte le informazioni su questo argomento. Io lo ricordo, è l'800 91 35 20. Tra l'altro ha avuto anche uno stop temporaneo questo numero verde, perché si sono dovuti anche formare molto dettagliatamente gli operatori che erano preposti a questo servizio. Adesso credo che rientri in funzione a breve, dottor Valentini? Ma diciamo che il numero verde è tuttora in funzione, con orario dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il problema è che molto spesso è preso l'assalto e quindi gli operatori non ce la fanno a rispondere a tutte le telefonate in arrivo, e l'utente può trovare a volte occupato. In ogni caso io consiglio, per coloro che avessero difficoltà a contattare il numero verde, a servirsi del nostro servizio di consulenza via posta elettronica, che si può trovare alla pagina dei contatti del sito che ho citato prima. Noi rispondiamo in 24 ore in genere, quindi è un servizio che credo sia abbastanza valido, e non credo che si trovi molto facilmente nell'amministrazione pubblica. Beh, certo, evidentemente appunto con come dire il canale della posta elettronica magari si ha qualche minuto di più di tempo per poter ragionare meglio sulla domanda che vi viene inoltrata, quindi formulare la risposta più corretta dal punto di vista tecnico possibile. C'è anche questo vantaggio. A questo punto manca un altro provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà disciplinare tempi e modi della comunicazione al fisco, dottor Valentini. Questa novità pure vi coinvolge? Ma diciamo che per il momento non è impellente, perché questa nuova comunicazione che sarà dovuta all'Agenzia delle Entrate riguarderà solamente, a partire dal 2009, quindi escludendo tutti coloro che hanno già completato i lavori, riguarderà solamente coloro che svolgono dei lavori a cavallo dei cosiddetti periodi d'imposta. Cioè, mi spiego. Loro che hanno o che incominceranno dei lavori nel 2009 e termineranno nel 2010, questi sono tenuti a inviare questa documentazione. È un modulo da compilare online e da inviare all'Agenzia delle Entrate. Quindi insomma tutta telematica la nuova procedura. Speriamo che non generi ulteriore confusione, dottor Valentini. Che ne dice? I numeri che stiamo affrontando purtroppo è l'unico modo, perché come diceva lei prima, è vero che a gennaio i contribuenti che devono inviare la raccomandata sono pochi, ma sono pochi fra virgolette, perché noi siamo abituati a ragionare in termini di centinaia, se non di migliaia di utenti. Infatti, quindi, anche perché ricordiamo che questo è uno degli incentivi varati negli ultimi anni, fra quelli sicuramente che hanno avuto più successo fra le famiglie e i contribuenti. Noi ci ritorneremo su questo argomento, magari a Salvadanaio, la prossima settimana, al quale lei è sicuramente invitato. Dottor Valentini, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a lei, buonasera, buongiorno. Buongiorno. Alessandro. E allora, alle 12? Alle 12 oggi ritorniamo sui fondi pensione di categoria, insomma, come si sono comportati con questa crisi finanziaria. C'è un primo trimestre che come rendimenti, insomma, sta tornando un po' più serena la situazione, a quanto pare. Alle 8.32 minuti diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. Oggi all'Aquila il Consiglio dei Ministri varerà un decreto da quasi 9 miliardi di euro per l'Abruzzo. Non sono previste nuove tasse né l'incremento di accise su benzina e sigarette. Per recuperare i soldi si farà ricorso a giochi e lotteria, ai fondi già esistenti dell'Unione Europea, alle erogazioni libere dei cittadini. Presidente Napolitano difende la Costituzione, non è un residuato bellico, diceva, modificata solo sulla base di motivazioni convincenti. Il capo dello Stato del 25 aprile dice non è la festa di una sola parte. È stato trovato morto nella sua casa in Virginia David Kellerman, responsabile finanziario dell'immobiliare Freddie Mac. Kellerman, 41 anni, era nel mirino per un bonus di $800,000 ricevuto dopo il salvataggio pubblico della finanziaria, e l'ipotesi su cui indaga la polizia è il suicidio. Infine il calcio, la Lazio è la prima finalista di Coppa Italia dopo aver vinto a Torino 2-1 contro la Juventus nel ritorno delle semifinali. Stasera l'altra semifinale, Inter-Sampdoria, all'andata finì 3-0 per i Liguri. E allora, alle 8.33 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Parliamo dunque, come detto, del decreto sicurezza approvato ieri in via definitiva dal Senato. E c'erano le ronde, ma le ronde non ci sono più. Dovevano essere allungati fino a 6 mesi i tempi di permanenza degli immigrati irregolari nei centri di identificazione per identificarli e rimpatriarli. Non ci sono più. E poi su un altro fronte c'erano i medici spia, ricordate, quelli che potevano prima curare e poi denunciare gli eventuali immigrati irregolari. Non ci sono più neanche quelli per il momento. Tre cavalli di battaglia della Lega. Oggi scrive Vittorio Feltri su Libero: il provvedimento del decreto sicurezza è stato svuotato dalle parti più importanti, è rimasto poco più dell'involucro, praticamente inutile, si è perso tempo per niente, si è sprecato del fiato, la solita pantomima all'italiana alla quale si è adattata in perfetto stile terrone pure la Lega, che paga il prezzo salato della propria ostinazione nel non volere l'accorpamento delle elezioni europee e del referendum. Insomma, uno scambio politico, ipotizza Vittorio Feltri. Voglio salutare l'onorevole Matteo Salvini della Lega. Buongiorno Salvini. Buongiorno e buon lavoro a tutti. Tra l'altro direttore di Radio Padania, una Radio Padania che leggevo oggi su, credo, La Stampa, no, su qualche giornale, insomma, si parla, no, sempre su Libero, si diceva che la base è molto arrabbiata. Ma come? La Lega che è sconfitta? Ma guardi, queste norme tornano settimana prossima alla Camera dei Deputati. Sicuramente il primo round la Lega l'ha persa, ma più che la Lega penso gli italiani, perché domenica, in questi giorni c'è tanto dibattito su dove andare Berlusconi il 25 aprile, cosa fa chiunque passi per strada il 25 aprile. Per grazie ai deputati del PD, dell'UDC e del PDL, quindi di tutto lo schieramento, che hanno votato per segare l'emendamento che allungava i tempi di permanenza dei clandestini nei centri di espulsione, domenica 26 usciranno 1.100 clandestini, tranquillamente, sorridendo, salutando e ringraziando, perché appunto qualcuno dice ha perso la Lega, Feltri dice ha perso la Lega. Secondo noi ha perso il buon senso. Io penso che chi ha votato un governo di centrodestra l'abbia fatto per avere più sicurezza. Feltri, quindi, dice più che altro ha trionfato la politichetta, cioè si è parlato, come spesso avviene in Italia, le ronde, sembrava che le ronde dovessero riempire l'intero paese, certo arriveranno in un altro decreto legge, sembrava dovessero esserci tutti i medici spia, sembrava appunto i clandestini, e poi non c'è nulla per il momento, voglio dire, è tutto svuotato. Ecco. Guardi, noi l'abbiamo portata avanti per 3 mesi, settimana prossima la Camera torna al disegno di legge sulla sicurezza e noi testardamente, Feltri potrà dire che i leghisti sono testardi, sono cociuti, ma noi pensiamo che appunto la lotta all'immigrazione clandestina, il riconoscimento dei volontari della sicurezza nelle città, la possibilità di segnalare i clandestini ai pronti soccorso siano richiesti dalla stragrande maggioranza della gente di buon senso, li ripresenteremo. Allora, io spero che, ripeto, la sinistra fa il suo dovere di opposizione, giusto o sbagliato che sia, vota contro, e quindi vota contro il reato di immigrazione clandestina, Quello che ci ha stupito come Lega sono stati i parlamentari di Forza Italia e di Alleanza Nazionale che, nascondendosi dietro il voto segreto, per fare uno sgarbo, magari loro pensano a Bossi e alla Lega, ma sostanzialmente al Paese, hanno votato questo emendamento salva clandestini. Noi settimana prossima torneremo senza il voto segreto alla Camera dei Deputati con gli stessi provvedimenti. Tra l'altro, perché per esempio, sempre sulle ronde, la battuta migliore la fece il ministro Brunetta qui da noi, nella famosa intervista. Pochi secondi, sentiamo Brunetta che ne pensava delle ronde. Io ho detto che mi piace la ronda di notte di Rembrandt ad Amsterdam e mi piace solo quella. Allora, la ronda di notte di Rembrandt, no? Straordinaria dipinta. Peppino Caldarola, buongiorno. Buongiorno. Scrive sul Riformista, scrive sul Giornale, insomma, giornalista molto apprezzato. Di recente abbiamo trovato qualche articolo, il Riformista di recente è andato anche abbastanza duro, no? Con la Lega. Ministro, secondo lei, ha scritto il ministro Maroni che si trastulla con le ricette infantili del proprio partito. Che ne è di queste? Sono ricette infantili quelle che propone la Lega? Ma sono ricette inutili, perché non il tema della sicurezza. Innanzitutto bisogna partire dal dato che sono aumentati alcuni reati contro la persona e contro le rapine, ad esempio. Noi siamo di fronte a città più insicure rispetto al passato. Non erano neppure sicure nel passato, però sono più insicure. Io penso che la misura delle ronde sia del tutto inutile. Il problema di fondo lo si risolve attraverso quel poliziotto di quartiere che non c'è, attraverso l'aumento delle forze di sicurezza sul territorio. Si può risolvere anche, come ha iniziato a fare il governo Berlusconi, disponendo in alcune città misure che prevedono l'intervento dei militari. Questi cittadini che girano pattugliando la città non mi danno nessun affidamento e soprattutto non credo che possano fare nulla, quindi è bene che il Parlamento non ne abbia discusso. Quando ne discuterà non so se saranno approvate, però penso che sia una misura del tutto inutile. Ma le chiedo, la Lega, qualcuno dice, non può fare il partito di governo e di lotta, o di lotta o di governo, fa questo? Cioè perché ripropone questi emendamenti? Ci credono, però si capisce, insomma, anche per il momento sono stati affossati, ricordate anche la Mussolini, le 100 firme contro i medici spia, quindi c'è anche un malumore su quello che propone all'interno della stessa maggioranza. Secondo lei perché va avanti? La Lega fa il suo dovere, nel senso che ha impostato la propria presenza sul territorio piuttosto forte al nord, e sul tema della sicurezza, ha la necessità di smarcarsi rispetto all'azione di governo per ragioni identitarie che sono politicamente comprensibili. Siamo un paese in perenne campagna elettorale, perché se ne finisce una ne comincia un'altra, quindi io credo che la Lega faccia quello che ha promesso ai suoi elettori di fare. Soprattutto si rivolge, diciamo, più che alla certezza della sicurezza nelle città, alla psicologia dei cittadini, i quali, vedendo magari delle ronde, possono pensare di essere più difesi. Io penso di più alla sostanza e penso che qualche volante in più per strada forse può essere più utile di una di cittadini con un bracciale al braccio. Salvini, che ne pensa dell'ipotesi che circola, insomma, di questo scambio? Lo stesso Feltri ha detto, questa politichetta, cioè avete ottenuto sul referendum la data del 21 giugno, non volevate l'accorpamento, su quello si è trovata una quadra politica, per usare un termine che vi piace molto. Dall'altra parte avete dovuto cedere sulle ronde per il momento, cedere sui medici spia forse per il momento, cedere sui clandestini. Nessuno scambio, palle, interpretazione di Feltri a cui lasciamo libero esercizio della sua fantasia. Io veramente allibisco, da padre di famiglia e da milanese normale, quando si gioca sulla pelle della gente, perché qua, grazie a questo emendamento approvato dal PD, dal PDL e dall'UDC, domenica, e lo dico all'onorevole collega Caldarola, escono 1.100 clandestini. Ho capito, però, domanda Salvini, secca, aiutano o non aiutano la sicurezza 1.100 clandestini in più in giro? Io penso che non aiutino, se la sicurezza appunto è un'emergenza, non aiuta a liberare 1.100 clandestini. Però scusi Salvini, per ora il termine era di 60 giorni ed è di 60 giorni, è sempre stato così dalla legge, per identificarli. Certo. Evidentemente ci fossero più strumenti per identificarli si potrebbe fare, cioè voglio dire, finora si è andata avanti così, non è che adesso escono i clandestini perché non è stata approvata questa norma, fino a ieri uscivano, non uscivano? Ma appunto per questo ci cercano di cambiare le cose che non funzionano. L'Europa, di cui tutti parlano, quindi anche la sinistra, quindi anche il riformista, l'Europa porta addirittura a 18 mesi, non a 6 mesi, a 18 mesi, a un anno e mezzo il tempo di permanenza nei centri di espulsione se uno non dice chi è e da dove viene per poterlo espellere. Noi stiamo parlando di 6 mesi, l'Europa arriva a 18, quindi mi si spieghi, la Lega ripropone questi provvedimenti non perché è un nostro ghieribizzo e non abbiamo niente di meglio da fare, perché pensiamo che sulla sicurezza si possa fare qualcosa. Le ronde, mi spiace per il dottor Caldarola, ci sono già. A Bologna li chiamano angeli della sicurezza, in Sardegna li chiamano volontari della sicurezza, a Venezia li chiamano Ambrogio e a Torino li chiamano Pinco Pallino. Sono papà, mamma e nonni che vigilano nei parchi e fuori dalle scuole. E allora che dovevamo mettere di così urgente nel decreto legge? Creiamo dei corsi di formazione per evitare che chiunque si inventi la ronda notturna. Quindi per assurdo la sinistra ha fatto il bel gesto di lasciare nell'anarchia quello che già esiste, perché la gente fortunatamente le proprie città le vive e le vorrebbe anche sorvegliare. Caldarola, come finirà questa battaglia di un partito che appunto segue anche quelle che sono le richieste dei propri elettori, però sta anche al governo? Insomma, la frase di Brunetta, la battuta, però è sintomatica del fatto che la ronda, mi piace quella ronda di notte di Rembrandt, punto. Ma secondo me finirà, il centrodestra governa in condizioni di assoluta tranquillità perché ai numeri per navigare tranquillamente verso la fine della legislatura, il che paradossalmente potrebbe aumentare la conflittualità interna, visto che adesso ci sono le europee, l'anno prossimo ci saranno altre elezioni e poi altre elezioni ancora. Io faccio piuttosto una previsione un po', come dire, più azzardata, nel senso che mi immagino che se alla fine dell'anno i segnali di ripresa economica saranno molto, molto più accentuati, ovvero si vedrà un po' più di luce alla fine del tunnel, possa venire in mente a Berlusconi l'idea delle elezioni anticipate e questo possa spingere la Lega ad aumentare il conflitto esattamente per le ragioni di identità che le sono proprie. Bella come analisi, staremo a vedere. Intanto, per chiudere, due domande secche. Onorevole Salvini, le impronte le ha date o no? Io non ho capito, per votare. Le ha date, allora si è piegato insomma in questa battaglia, le ha date le minuzie, no, per votare l'impronta, ma la produttività però le ho date. Sì, vabbè, un'ultima cosa, ho un bel kebab, oggi non se lo mangia a Milano? Guardi, io rientro e onestamente preferisco un risotto con lo spus. Vabbè, ma van bene tutte e due, insomma, potrebbe farsi quello e poi un kebab. C'è la legge contro i kebab, attenzione, no, non è proprio la legge contro i kebab, però tutti i kebabari, come si chiamano a Milano, sono, in Lombardia, sono sull'attenti, perché è passata questa legge. Meglio il risotto con l'osso buco, per chi non conosce il milanese. Grazie a Matteo Salvini, onorevole della Lega Nord, grazie a Peppino Caldarola, editorialista del Riformista, del Giornale 24 Mattino. Allora, sono le 8:48 minuti, le mani sono, le avete tenute attaccate al volante, continuate a farlo anche se parliamo della cosiddetta tassa sui morti. Voglio salutare Luigi Roano, che è il cronista del Mattino. Buongiorno Luigi. Allora, buongiorno a te. Si discute il bilancio del comune di Napoli, la terza città più importante d'Italia. Si è parlata di questo 9 euro spuntati di cosiddetta tassa sui morti, che è? Allora, al comune sostengono che non è una tassa, da un punto di vista giuridico effettivamente è così, non è una tassa, tuttavia lo hanno definito contributo per giardinaggio e manutenzione dei cimiteri. È una cosa che è contenuta in un regolamento della polizia mortuaria, ma come tutti i regolamenti che si rispettano, per essere concretizzati necessitano di una determina, di una norma attuativa. Ebbene, il Comune di Napoli fino a ieri non l'aveva attuata, o meglio, l'aveva tenuta celata. Improvvisamente è sbucata fuori questa norma attuativa che farà sì che ogni titolare di loculo, morto o vivo, dovrà pagare 9 euro al mese per questa manutenzione del loculo. Tant'è che l'assessore Riccardo D'Alfonso ha postato in bilancio la bellezza di 3 milioni di euro che si attende da questo incasso, e mi sembra francamente abbastanza particolare. È come se da una parte il governo non fa pagare più l'ICI ai cittadini e dall'altra ai comuni mettono questa sorta di... Sì, qualcuno dice tolta la tassa dai sui vivi, la mettiamo sui morti. Insomma. Anche perché a Napoli già si è provato a fare qualche centimento e la maggior parte delle persone titolari dei loculi naturalmente sono defunte. Ma infatti fino a questo momento qua loro non hanno incassato un centesimo, pur essendo in vigore nel regolamento dal 2006 questa cosa, non si erano mai preoccupati di andare a incassare perché sanno quali sono le difficoltà. Luigi Roano, eccoci qua ancora, cronista del mattino. Dicevamo la tassa è retroattiva per l'imposta, perché certo, no, il contributo. Sennò poi lo so già che mi chiamano da Napoli, dal comune, a dire contributo. Io ho già qua una cartella elettorale vera e propria. Sì. E che c'è scritto? Leggice. È scritto chiaramente che contributo per giardinaggio, nettezza e decoro per regolamento polizia municipale come acconto per il 2006 35,32 euro, per il 2007 35,32 euro, per il 2008 36 euro, in totale retroattiva, straordinaria retroattiva. Tra l'altro Roano, con noi c'è anche il sindaco di Torre del Greco, sempre Napoli, Ciro Borriello. Sindaco, buongiorno. Anche lei è passato, insomma, ha avuto il suo momento, se si può dire, sui giornali per quella ribattezzata come tassa sui morti, nel senso c'è anche a Torre del Greco, ma non solo, c'è i diversi comuni possono farlo, c'è un contributo per mantenere il giardinaggio, insomma, dei loculi, però insomma, come non pensare che sia una tassa sui morti, no? La battuta viene spontanea, dai. Beh, è chiaro, però io credo che sia anche un tipo di informazione sbagliata. Ah, dice. Bisogna chiamare le cose con i propri nomi. E che cos'è allora? Questa è una cosa vecchissima. Pensa che il regolamento del Comune di Torre del Greco dal 1926 prevedeva l'IRE 10 per pulizia, spazi e giardini e per il decoro del cimitero. E lei avrebbe fatto una straordinaria iniziativa togliendolo, magari. Cosa? Avrebbe fatto una straordinaria iniziativa rivoluzionaria cambiandolo, togliendolo magari. Rispetto a varie delibere che negli anni sono succedute, soprattutto l'ultima, dalla mia, del 2002, del Ministero Prefettizio, rispetto a un invito della Corte dei Conti in cui ci dice che servizi, che ci raccomandava e ci ricordava che i servizi cimiteriali sono a pagamento, rispetto anche al federalismo fiscale ormai in vigore, i comuni devono imparare a vivere di il proprio, sarebbe stato veramente difficile fare un'inversione di vede che però, sindaco, lei ammette, insomma, bisogna far cassa i comuni, giustamente, cioè devono sono come delle famiglie, devono fare un po' cassa, devono risparmiare, devono prendere di qui, prendere di là. Insomma, i servizi qualcuno pur li deve pagare, insomma, e mi sembra che effettivamente una tassa, nel caso del Comune di Torre del Greco, di 1,10 euro per ogni loculo, 1,10 euro mensile per ogni loculo, per tenere pulito il cimitero, tenere gli spazi liberi, i giardini curati e quindi con il giusto decoro, non mi sembra, diciamo, una tariffa esosa. Quindi quando le dicono hanno tolto l'ICI e mettono la tassa sui loculi, lei si arrabbia un po', non è un po' così. Perché diciamo che capisco che è questo che fa notizia e non il fatto invece che si cerca di ridare una giusta impostazione alle cose. Se il debito del nostro Stato è uno dei più alti al mondo, e probabilmente anche perché nel passato molto spesso molti servizi non sono stati pagati direttamente. E questo è vero. E poi c'è stato ovviamente un giro che poi veramente... qualcuno deve pur pagare. Sì, Luigi Roano, io devo chiudere, cronista del mattino, ma so che c'è un conflitto su questo con la curia di Napoli, che è proprietaria degli spazi, che dice perché la curia di Napoli è titolare del 90% dei suoli cimiteriali. C'è un contenzioso aperto, ma consentimi solo un secondo. Sì. Lascio al sindaco due interrogativi, due considerazioni. Perché un'amministrazione pubblica non dà un servizio pubblico primario come quello dei cimiteri gratis, viste tutte le tasse che già ci sono? E poi chiedo al sindaco di Torre Greco, ma dal 1920 ad adesso come ha fatto? Perché non si è preoccupato di riscuotere questa tassa? E perché solo oggi, nel 2009, si preoccupa di andare vicino ai torri e c'è il federalismo, bisogna recuperare dei soldi. Poi dal 1926 non era responsabile lui. No, rispondo io per lui perché il tempo è finito, ma su questo tema magari ritorneremo, perché la gente si appassiona, no? Anche se si parla di tassa sui morti, e le mani le avete tenute tutte attaccate bene al volante se siete alla guida. Benissimo, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Laura Marchesi, Alessandro Marco Tulli in redazione e Filippo Aureggi in regia. Ovviamente saluto e ringrazio sia Luigi Roano del Mattino, Ciro Borriello, sindaco di Torre del Greco. Tra poco c'è Giuliano Ferrara con Parliamo con l'Elefante, e noi ci ritroviamo con 24 Mattino domani.